dibini dop dop dop dop dop yes yes yes yes dip dibini dip dibini double double double double yes yes yes yes el arte mi nastarda dibini dop dop dop dop dop yes yes yes yes dip dibini dip dibini double double double double yes yes yes yes el arte mi nastarda. Oh, bientôt.